Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno e benvenuti. Oggi Essere e benessere trasmette dal Salone del Libro di Torino. Siamo arrivati, siamo al padiglione 2, allo stand 166. Vi abbiamo invitato nei giorni scorsi a partecipare in diretta ad un laboratorio molto speciale. Il laboratorio delle emozioni. Accomodatevi, direi, perché non avete che da guadagnarci. Voi che siete venuti a trovarci di persona, se avete piacere, potete indossare la maglietta di Radio 24, che è un potente attivatore di emozioni. Invece per tutti gli ascoltatori che ci seguono da casa, potete chiamare come sempre il nostro numero verde 800 24 0024. Oggi, cari amici, leggeremo, annuseremo, mediteremo, useremo infatti le fragranze, il respiro, le parole per raggiungere un luogo in cui il cuore, o per meglio dire le emozioni, la fanno da padrone. Tre strade diverse, una meta comune, il nostro benessere emotivo. Quindi se siete pronti, intanto se volete anche voi accomodarvi, io darei subito inizio al nostro viaggio. Quel gran genio del mio amico, lui saprebbe cosa fare, lui saprebbe come aggiustare, con un cacciavite in mano fa miracoli. Ti regolerebbe il minimo, alzandolo un po', e non picchieresti in testa, così forte no, e potresti ripartire, certamente non volare, ma viaggiare. La nostra prima guida di questo piacevole viaggio è Carola Barbero, ricercatrice all'Università di Torino. Benvenuta. Grazie, buongiorno a tutti. Inizierei da quello che può sembrare un indovinello: non è una droga, ma può creare dipendenza. Non è un alcolico, però dà ebbrezza. Non è un pasticcino, però è un dolce conforto. Che cos'è? Allora, lo posso rivelare perché il mio non è un libro giallo, quindi non è che spiegando il titolo io sveli il finale. È il laboratorio delle emozioni. È un laboratorio in cui prima di entrare è importante chiudere gli occhi, inspirare ed entrare. E qui capite qual è il legame tra le parole, le fragranze e il respiro che sono stati menzionati in apertura. Allora, mi stava distraendo Gianluca Nicoletti, che è venuto a salutarci, spero che poi si accomodi tra di noi, ma dottoressa Barbero, c'è un momento nella nostra vita in cui capiamo che il tempo della lettura, così come il tempo dell'amore, dilata il tempo della vita. Allora, cari partecipanti, la domanda sorge spontanea, lo chiedo a voi che state partecipando qui seduti al Salone del Libro a Essere Benessere, a questo laboratorio emotivo, lo chiedo naturalmente ai nostri amici che ci stanno ascoltando da casa: qual è il libro che vi ha fatto, ci ha fatto scattare il click e ci ha fatto intravedere che la lettura poteva essere uno straordinario strumento di benessere? Chiamateci. Perché il primo libro, come il primo amore, si dica, non si scorda mai. E non a caso paragoniamo la lettura all'amore, perché come l'amore ci fa vivere tanti stati d'animo, l'attesa, lo stupore, l'allegria, la paura, allo stesso modo i libri ci permettono di sperimentare e rivivere anche delle emozioni, ma attenzione, a differenza dell'amore, le possiamo fare a una distanza di sicurezza, il che, cara dottoressa Barbero, ha i suoi vantaggi. Certo che ha sui vantaggi, innanzitutto perché, come peraltro aveva già visto Aristotele, in questo modo noi proviamo le emozioni purificandoci di queste emozioni. E poi perché, come invece avevano visto altri due importanti filosofi come Lucrezio e Kant, assistere a una tempesta sul mare, essendo però sicuri di essere all'asciutto e al riparo, ha indubbiamente il suo fascino, no? Immaginate di, anziché assistere alla tempesta da lontano, esserci in mezzo, ve la godreste. Beh, molto di meno. Assolutamente. Direi. Allora, lei nel suo libro propone 11 laboratori, proprio partendo da dei libri, abbinando un romanzo ad una emozione. L'allegria, Daniel Pennac, La fata carabina, lo stupore, Amelino Tomb, Stupore tremori, l'amore è Io e Marley. E allora mi chiedo, ma come mai ha scelto questi romanzi e non ad esempio i grandi classici? Allora, i grandi classici non perché ho... ad esempio l'amore, io e Marley. Lo so, questa io è avrei scelto uguale, cioè avrei fatto la stessa scelta, ma da una professura, come si dice. Certo. Uno si aspetta che prenda allora, la Carenina. Diciamo, la ragione per la quale non ho preso in esame i classici è stato che non sono così presuntuosa, non me la sono sentita, perché i classici hanno fatto sì che i lettori dessero vita dei laboratori da moltissimo tempo e quindi non volevo io provare a fare dei laboratori diciamo ex novo. In particolare riguardo a Io e Marley, ovviamente è una provocazione perché presento questo sentimento come l'amore nella sua forma più pura soltanto verso gli animali, certo. Che la dice lunga su come la penso, però diciamo nel finale spiego anche che in fondo forse è un bene che gli uomini non si amino reciprocamente come gli animali amano noi, perché è un amore forse troppo grande che gli uomini non sarebbero in grado di condividere. Allora proviamo a chiedere anche ai nostri ascoltatori qui presenti, perché noi oggi insieme a voi lavoreremo e lavoreremo non solo con i libri ma anche con le fragranze, con il respiro, e vi faremo anche scrivere perché le emozioni possono essere anche fermate su un foglio. Abbiamo anche un grande maestro, Pino Pace, che è qui in prima fila, che ci insegnerà a scrivere gli haiku. E non a caso abbiamo scelto gli haiku. Ma intanto voi da casa potete come sempre intervenire. Il nostro numero verde lo conoscete, 800 24 00 24. Scriveteci il libro che vi ha fatto scattare il click, ma anche proviamo a anche noi crearci una nostra piccola biblioteca delle emozioni. La dottoressa Barbero sicuramente ci aiuta. Come possiamo fare? Tanti libri ci sono piaciuti, come possiamo riuscire ad abbinare e a scegliere l'emozione e il libro? Si sceglie prima il libro e l'emozione, o ci facciamo ispirare dell'emozione per andare a ripescare nella nostra biblioteca il libro a cui abbinarlo? Tutti i laboratori che ho fatto io sono partiti nel modo più classico, cioè comprando il biglietto. Come si accede al laboratorio? Si compra il biglietto d'ingresso. Come si fa? Si compra un libro. Si compra e lo si apre. Lo si apre, può non essere così semplice entrare. Vi sarà capitato di leggere dei libri nei quali dovevate leggere 10-20 pagine prima di riuscire a entrare dentro, perché c'era qualche difficoltà. No, non bisogna temere queste difficoltà, prima o poi si entra, una volta che si sia comprato il biglietto ovviamente. Quando, come ci si fa a accorgere che si è arrivati finalmente al laboratorio? C'è una portavetri, perché come ogni laboratorio che si rispetti anche questo ha un'aria asettica e sigillata, e la porta si apre soltanto dall'interno. E questo per due motivi importanti. Il primo motivo è che è importante che nessuno di indesiderato possa entrare dentro, e poi che chi è dentro possa uscire quando vuole, perché il laboratorio non è mai una prigione. Avrete provato anche quella sensazione che in realtà è un misto di soddisfazione e però anche di rabbia di chiudere un libro, di dire basta, non ce la faccio più. A me è capitato anche con qualcuno dei libri del laboratorio, qualcuno anche qualche libro molto bello, per esempio il primo laboratorio che è guidato dall'emozione della tristezza, io l'ho fatto con il libro di Margaret Mazzantini, Non ti muovere, ed è un libro tristissimo, e io forse sono entrata in questo laboratorio in un momento che per me non era azzeccato. Infatti non a caso io per tutti i laboratori ho messo delle mascherine con la difficoltà, gli ingredienti, perché volevo diciamo facilitare i frequentatori di questo laboratorio in maniera tale che potessero sapere che cosa trovavano dentro. Ebbene, per me è stato una difficile diciamo proseguire nella lettura, proprio perché questo gesto di chiudere il libro e dire non posso, non ce la faccio, voglio fermarmi qui, ho dovuto farlo, per poi ovviamente rientrare, perché il laboratorio non è un posto dal quale se usciamo una volta non possiamo entrare più. Però voi fermatevi qui, voi che siete seduti, anzi se volete potete indossare la maglietta. Tra poco parleremo anche di fragranze, faremo proprio una degustazione. Abbiamo legato tutte queste parole insieme: libri, quindi parole, lettura, fragranze, respiro, scrittura, tutto per così farci fare veramente un laboratorio esperienziale sulle nostre emozioni. Ma io qua vicino, in silenzio, ho Marco Tammietto. Marco Tammietto è un professore, noi ne abbiamo sentito parlare a proposito del sesto senso, ma noi, buongiorno a lei professore, è neuropsicologo e ricercatore presso il Dipartimento di Psicologia all'Università di Torino. Professore, io vorrei che lei ci aiutasse a capire che cosa succede quando leggiamo, perché qualcosa nel nostro cervello si attiva, si accende, si spegne, ci fa dire questo libro non mi piace, lo chiudo, entriamo. Sì, ma il cervello ha un modo molto concreto, come dire, di dare corpo e sostanza a quello che leggiamo. Per esempio, uno studio recente, se leggiamo alcune metafore come aveva un tocco soffice come il velluto, ecco, vediamo che si attivano non soltanto le aree che sono ovviamente legate alla visione, perché stiamo leggendo, e alla comprensione del linguaggio, ma anche le aree che si attivano effettivamente quando veniamo toccati. Quindi che sono le aree somatosensoriali. Quindi il modo in cui il cervello ci fa entrare dentro una storia o dentro un racconto è quello sostanzialmente di metterci nei panni, di farci calarci nella realtà che stiamo leggendo, ma in modo molto fisico, cioè simulando in qualche modo le sensazioni visive, tattili, percettive che nella storia vengono raccontate, e così anche le situazioni emotive, per cui racconti o anche brevi frasi che hanno un contenuto emotivo, piacevole o spiacevole, attivano quelle stesse aree che sono coinvolte nel riconoscimento delle stesse emozioni piacevoli o non spiacevoli. Naturalmente, come quindi dice, noi diciamo l'emozione arriva al cuore, ma in realtà tutto è nella cabina di regia. Quasi tutto è nella cabina di regia, considerando che la cabina di regia è ovviamente, come dire, parte di un corpo, quindi non è solo il cervello, ma è il cervello e il corpo, ma tutto arriva lì. Quindi ha ragione la dottoressa che diceva abbiamo la possibilità, leggendo, di sperimentare emozioni non a costo zero, ma a un costo controllato, diciamo, perché a costo zero non avremmo neanche, come dire, la possibilità di fruirne la parte interessante, cioè di comprensione di noi stessi e delle nostre emozioni, ma a un costo controllato. È, come diciamo, un laboratorio in cui c'è una componente, come dire, di c'è un paracadute, ecco. Però un po' si viaggia veramente, o perlomeno il cervello rappresenta quel viaggio. 800 24 00 24 per chi ci vuole chiamare da casa, 349 238 66, lancio sempre le nostre coordinate, con Carmelo Lauricelli in regia, la parte tecnica che mi sorride perché lo faccio spesso. Se invece voi tra il pubblico volete intervenire, non avete altro che da fare un piccolo cenno, perché noi siamo super forniti, stavo dicendo super dotati di microfono, e quindi vi raggiungiamo. Intanto vi leggo i miei ascoltatori che hanno risposto al nostro primo invito, quello più semplice, il libro che ti ha fatto scattare il click. Più complicato invece costruirci, ma io so che ce la faremo nel corso della trasmissione, la nostra biblioteca delle emozioni. Giorgia da Bologna, il libro che mi ha fatto scattare il click è Donne che corrono coi lupi, complicato ma una vera fonte di saggezza. E Le libere donne di Magliano Di Mario Tobino, Daniela da Viareggio, La ragazza di Bube di Cassola, il mio primo libro è stato Storia di neve di Mauro Corona, perché il primo libro, dicevamo, come il primo amore non si scorda mai, e lì fa la differenza. Io penso anche, come genitori, insegnanti, consigliare il primo libro anche a un bambino piccolo, hai una grande responsabilità, perché avvicinare un bambino a una lettura bisogna saperlo fare bene, perché gli regali veramente un'altra vita, no? Un modo di guardare la realtà e di guardarsi straordinario. È una sorta di iniziazione. Certo. Sbaglio? No, non sbaglio affatto. E infatti è stata proprio quest'idea del mio primo laboratorio che mi ha portato poi in realtà a pensare che allestire una biblioteca delle emozioni poteva avere senso. Per dare anche, diciamo, il mio contributo a quelle che sono le risposte degli ascoltatori, il mio primo laboratorio, mi vergogno anche un po' a dirlo, però già che siamo qui, insomma, appunto, sperimentiamo un po' il rossore, la vergogna, sì, il pudore. Il pudore è un'emozione che manca nella mia biblioteca. Io avevo 8 anni e non amavo leggere, perché mi somministravano sempre quelle letture per bambini. Io leggevo una pagina su 20 e ovviamente non capivo niente. Poi un pomeriggio sono andata a fare un giro in uno di quei mercatini dell'usato, all'epoca abitavo a Parigi, e ho visto un libro dalla copertina molto attraente c'era il piede di una donna con le unghie laccate, con sopra dei fronzoli e una mosca. Era chiaramente il piede di un morto, almeno ai miei occhi. E per me, diciamo, il primo fascino è stato quello per un laboratorio proibito, un cadavere, qualcosa che a me, bambina, io all'epoca non guardavo la televisione, era proibitissimo. Ho cominciato a leggerlo con quell'innocenza che hanno i bambini, non in come se fosse stato Piccole Donne. Poi ovviamente il passaggio successivo era quello di farmelo comprare per poter proseguire la lettura del mio laboratorio. Sono stata fortunata e me lo hanno comprato. E quindi, diciamo, nel giro di 2 anni, devo dire anche che libro era, si trattava di un libro di Agatha Christie, Un cadavere nella biblioteca. Che qualcuno di voi avrà letto, vedo delle facce che dicono, sì, la signora forse sì. E diciamo il senso di trasporto, questa cameriera arriva urlando, sveglia i padroni di casa dicendo c'è il cadavere di una donna nella biblioteca, per me è stato proprio farmi catapultare in questo mondo, si è allestito di colpo un teatro, ho viaggiato con la mente in un modo così forte come non mi era mai capitato con quelle letture che facevo della bande de quatre o che cos'era. E quindi diciamo ho scoperto che con i libri si poteva fare qualcosa del genere, per me è stato magico, magico proprio, e questo non l'ho più dimenticato infatti. Abbiamo un intervento dal nostro pubblico, un partecipante del nostro laboratorio. Buongiorno, una domanda. Rispetto a quello che stavate dicendo, l'idea della biblioteca delle emozioni suggerisce la riserva, la possibilità di avere appunto dei libri, quindi qualcosa che ha su di noi un certo effetto, qualcosa che si presta per poter, come dire, farci agire sulla base delle nostre emozioni. Forse questo è qualcosa che si può rileggere in 2 modi, sia dal punto di vista filosofico che da quello neuropsicologico, brevemente. Professor Tamietto, bella domanda, una domanda è una riserva a cui possiamo attingere sia per risperimentare emozioni che in quel momento magari non riusciamo, come dire, non riusciamo a vivere o non ricordiamo più, sia per trovarci rifugio. Questo sicuramente, come dicevo prima, come dire, abbiamo un modo molto concreto di il nostro cervello, un modo molto concreto di arrivare al significato di un libro, è quello di ricreare le emozioni e le sensazioni fisiche che in qualche modo proveremo stando in quella storia lì. Professoressa Barbero? Ovviamente è qualcosa di molto interessante da fare, a patto che come lettori si abbia ben presente la differenza tra il libro e la realtà. Per essere concisa, se si soffre di quel male del quale evidentemente soffriva Madame Bovary, cioè si è incapaci di distinguere la realtà dalla finzione, il mio consiglio spassionato è quello di fare altro, le parole crociate, i disegni, di correre, non so, andare all'aria aperta, ma non leggere troppi romanzi. Oppure scrivere le nostre, fissare le nostre emozioni, certo, su un foglio. E questo è un ne ottimo. Parliamo subito dopo la pausa. Essere e benessere. Ecco, ci siamo tornati insieme, siamo al Salone del Libro, Essere Benessere oggi e anche domani. Ha pensato di fare un laboratorio, molti di voi, e io sono felice, si sono accomodati qui, abbiamo la possibilità di lavorare con tanti esperti, lavoriamo sulle emozioni e partiamo dalle parole. Ma le emozioni sono anche creative. Infatti fanno nascere i profumi, ce lo racconta Renata De Rossi, responsabile della ricerca olfattorio, che è il primo luogo in cui si possono proprio degustare profumi creati da grandi nasi, profumi di nicchia. Buongiorno. Buongiorno. Il primo libro che l'ha fatta innamorare? Allora, il primo libro che mi ha fatto innamorare era un libro che sono andata a rubare dalla biblioteca perché mi era proibito leggerlo. Però c'è il gusto del proibito. Ed era La rivoluzione francese del Michelet. Professor Tamietto, siamo tranquilli? Ecco, perché? Perché, e quindi mi è rimasto sempre impressa la figura di Maria Antonietta, re, i figli, i terribili giacobini, Robespierre. Quindi... e quant'altro, quindi forse anche perché ho sempre avuto una passione per i libri storici, però mi ricordo ragazzina andare a leggere questi 2 tomi e leggendo si ritorna in quei periodi e mi medesimavo, certo. È un viaggio a ritroso nel furore della rivoluzione. Signora De Rossi, è vero che i nasi, che sono veramente degli artisti, sono in cerca di emozioni per creare poi le loro fragranze, come fanno i pittori? Come tutti gli artisti, come fanno i pittori. Il pittore mette sulla tavolozza coi colori e il naso dipinge, io le chiamo pitture olfattive. Come ci sono pittori che hanno una pittura più brutale, più forte, pensiamo all'espressionismo, pensiamo al movimento Cobra, ci sono dei profumi altrettanto forti come intensità e risveglio di sentimenti, altri più delicati. Perché dietro c'è, si può dire, la mano del naso? Assolutamente. O il cervello, forse, sì, professor Tamietto? Su questo sono perfettamente d'accordo, nel senso che l'anatomia, come la geografia, ha un'importanza e le strutture che si occupano delle emozioni e quelle che si occupano dell'olfatto sono vicinissime e l'accesso più diretto al sistema emotivo è attraverso l'olfatto perché, come dire, anche evoluzionisticamente sono le funzioni che ci permettono, come dire, di riconoscere il cibo buono da non buono, l'accudimento dei cuccioli, quindi, come dire, il nostro passato animale è quello che più direttamente ha un accesso non mediato attraverso il linguaggio. È quello che ci fa dire quello a naso. Sì. Se lo diciamo alla signora De Rossi, lei pensa subito ai grandi naso. Se lo diciamo al professor Tamietto, lui pensa a un altro genere di naso. A lei chi pensa? Ma io quando penso al naso, in generale all'olfatto, penso al più potente dei nostri sensi, nonostante quello che spesso i filosofi hanno pensato, che lo relegavano invece tra i sensi inferiori, no? Gusto e olfatto sono tra quelli inferiori, proprio perché è l'unico che non può essere messo a tacere. Infatti, perché sennò smettiamo di respirare. Certo, noi possiamo chiudere gli occhi per non vedere, ma se c'è una puzza, anche chiudere, se ci tappiamo il naso. Invece noi parleremo di fragranze. Tra l'altro ci sono di questi grandi nasi che sono. Ci sono ancora oggi i grandi nasi? Ci sono grandi nasi, ognuno ha, direi, una sua specialità. Ci sono grandi nasi che fanno delle pitture più impressionistiche, più di riflessi. Ci sono grandi nasi che danno delle impronte più forti di paesaggi, per esempio un naso come Bertrand du Chauffour viaggia in un'isola come il Bourbon e tira fuori un profumo che ricorda il profumo del vetivere, di queste piante. Vedi. Sul straordinario, quindi con un profumo, con una fragranza noi facciamo un viaggio, ma lo farete anche voi, perché qui abbiamo Luli Gaidano, responsabile del Bara Parfum di Torino e della scuola di formazione profumi di olfattorio. Buongiorno a lei e benvenute. Voi state fermi qui perché adesso annuseremo. Buongiorno. Le emozioni hanno un profumo, ad esempio l'allegria ha, certo, un suo profumo. Certo. Che profumo ha? Allora, buongiorno a tutti. Beh, l'allegria ha sicuramente un profumo di caramelle, ha un profumo di cioccolato, tutte le note gourmand, e quindi sono tutte note gustative. Immaginatevi una festa di bambini. Quindi, è quella, l'allegria è quella. Noi possiamo anche degustare un profumo? Molto volentieri, ho portato qui con me alcune fragranze per farvele poi degustare. E quindi noi potremo passare per i laboratori, attenzione, perché sentirete anche le fragranze. Ma parlavamo di amore, l'amore che profumo ha? Ciascuno si immagina un po' il suo profumo. Secondo lei che profumo può avere l'amore? Un profumo che stordisce. Un profumo che stordisce. Professor Tamietto, lei è innamorato? Sì, sì. E che profumo ha? L'amore? Vaniglia. Signora Gaidano, siamo lontani o siamo vicini? Il profumo dell'amore? Chiaramente il profumo dell'amore è molto soggettivo. Per quanto mi riguarda, il profumo dell'amore, sia al maschile che al femminile, ha un profumo di rosa. E quindi la rosa è abbinata alle note di patchouli. Non voglio dire, ma io oggi indosso proprio rosa. Ecco, perfetta. Che sono qua. E quindi la rosa abbinata al femminile può essere abbinata a dei tocchi di note più talcate come dell'iris, e la nota invece di rosa al maschile magari con delle note più di patchouli, quindi anche leggermente intrigante. E lo stupore? Lo stupore... sempre per me, certo. Lo stupore ha l'odore delle nuvole. L'odore delle nuvole? E l'odore delle nuvole quando si guarda al cielo, quindi le nuvole prendono chiaramente varie forme, ognuno vede la sua. L'odore dello stupore ha anche l'odore di quello che è il fiore di cotone, ma lo stupore può anche essere un qualche cosa che senti in un profumo che non ti aspetti di sentire, quindi tipo un odore di cotone, di carota. Voi fermatevi qui perché intanto sentirete proprio queste fragranze e sarà Luli Gaidano che ve le farà degustare. Intanto io vado dal mio Pino Pace. Pino, grazie, ci hai seguito perché Pino ci farà lavorare, fissare proprio su un foglio le nostre emozioni attraverso l'haiku, che è un'antica poesia giapponese del 1600 che io ho preso. Tu adesso immeritatamente mi hai chiamato maestro, diciamo che sono un onesto praticante. No, sei un maestro per il nostro laboratorio. Va bene. Un maestro ti nomino io maestro oggi. Grazie. Che profumo di rosa. No, quindi dicevo che è un'antica forma di poesia giapponese che a me è piaciuta molto subito perché per farla bisogna avere, cioè un ingrediente fondamentale è quello di fermarsi un attimo. Questo è l'ambiente meno indicato probabilmente per fare un haiku, ma se ci riusciamo oggi vuol dire che siamo proprio bravi. Allora, dimmi come si fa, perché poi, intanto il nostro pubblico da casa, certo, e i nostri partecipanti al laboratorio possono già pensarci. Noi tra poco andiamo alle informazioni sul traffico, ma metterò anche i nostri due prof qua perché vediamo se sono capaci. Un compito ai due professori. Allora, la ricetta, dai. Perché di ricetta si tratta, è molto semplice. L'haiku ha sempre tre versi, tre soli versi. Non ha un titolo, non deve essere in rima. Ha soli tre versi di 17 sillabe totali. E queste 17 sono 5 sillabe nel primo verso, 7 sillabe nel secondo verso e 5 sillabe nel terzo verso. Dico il numero 5, 7, 5. Per un totale. Fine così, per un totale di 17. E poi si scrive quello che si vuole. Poi si scrive più o meno quello che si vuole, ma dopo magari ne parliamo accenniamo qualcosa in più. Essere e benessere. Allora, eccoci qua. Siamo tutti un naso. Va bene così? Ok. Intanto, raffica di telefonate, rapidissimo, perché vogliamo sapere qual è il libro che vi ha fatto fare click. Intanto noi da qui vi raccontiamo anche, proviamo magari ad abbinare un profumo. Diana da Ferrara, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno. Grazie Diana di averci chiamato, mi dispiace che lei non sia qui con noi. No, mi sente? Sì, io la sento, ma volevamo vederla qua in carne e ossa. Grazie Diana, ci racconti il libro, anzi il titolo. Il libro è Intelligenza emotiva di Daniel Goleman, del 95. Ed è stato, che cosa le ha fatto scoprire? Mi ha aperto una visuale inaspettata sul mondo delle emozioni e su come noi possiamo servircene in maniera positiva per conoscerci meglio. Diana, io direi d'ufficio, io ho pensato che possiamo far alla nostra prima ascoltatrice, Carola, possiamo far ricevere a casa il libro di Carola Barbero. È la biblioteca delle emozioni, lei ne ha già uno pronto da mettere. Fabio dalla provincia di Lodi e Silvia da Udine, buongiorno a voi tutte e due. Fabio. Sì, salve. Voglio il titolo. Il libro che mi ha segnato particolarmente in età adolescenziale, quindi parlo di parecchi anni fa, è stato La Luna e i Falò di Cesare Pavese. Perché è un libro che parla di vita, anzitutto, di civiltà contadina che scompare, di fascismo, di emigrazione, di storie vere. E quindi è nella sua biblioteca emotiva? Certo, sì. L'ho riletto varie volte. Scusi, ma io sono molto emozionata. Possiamo far avere anche a Fabio il libro? Sì, Fabio, un libro anche a lei, perché mi dispiace. Grazie. Che non può sentire ad esempio le nostre fragranze, ma Fabio, voglio dirle che io sono molto emozionata, mi batte molto il cuore, perché una persona a cui io sono molto legata e di cui ero, come molti, follemente innamorata, mi ha detto ti verrò a trovare al salone, ma io conoscendo un po' gli uomini ho detto sì, figurati, e invece è arrivato Shel Shapiro. Ciao. Uso questo, ok. Buongiorno a tutti. Allora, Nicoletta, vedi, ciao amore. Le emozioni, il primo libro di Shel Shapiro, quello che ti ha fatto scattare il click. Io sono immortale. Lo siamo tutti. Grazie a Dio, siamo tutti immortali. Vero? Chiunque lascia un segno sulla vita di qualcun altro diventa immortale. Quindi mettiamo anche il libro di Shel nella nostra biblioteca delle emozioni. Thank you. Stai qua con noi. Vedi, tutti i nostri... Buongiorno. Pino, andiamo allora a fare l'haiku, magari prova a farlo anche Shell. Sì, vabbè, adesso non so se tutti quanti hanno seguito le raccomandazioni, vi dicevo questo è l'ambiente meno adatto, però io adesso mi sono preparato, devo dire, quindi avevo qualche haiku già scritto, provo a fare qualche accenno. Davvero è la fotografia di un istante, di un momento, per cui sono molto semplici, ne posso leggere uno. Dai. Un tè, un caffè, rumore di stoviglie, sto proprio bene. E questo è ad esempio la serenità, un haiku che trasmette serenità. Sì. Le buone idee si nascondono bene, sono nell'aria. Perché devono sempre avere 5, 7, 5, esatto, vero? Cioè la formula è questa, a me piace moltissimo perché bisogna riportare a un ordine quello che è tutto quanto disordinato, tutte le nostre impressioni, tutti i nostri pensieri che sono sempre numerosi, tutto quello che sentiamo, che facciamo ogni giorno, deve essere ricondotto a una formula fissa. C'è qualcuno che ha scritto un haiku? Magari ispirandosi a una fragranza che ha sentito. Vedo delle ragazze che non vogliono intervenire. Annusate, lasciatevi ispirare dall'haiku. Professor Tamietto, ma quando noi dobbiamo essere così sintetici, il cervello fa più fatica o ne fa meno? Uso una parte diversa. Veramente? Tipicamente sì, diciamo i due emisferi non fanno esattamente le stesse cose, quello destro è più sintetico, quello sinistro è più analitico, tant'è vero che una, come dire, dei test pratici che si fanno con pazienti che hanno una lesione e presenta una figura complessa, sì, che ha esternamente in qualche modo il profilo di una casa, allora se qualcuno e poi dentro dei molti dettagli particolari che non hanno significato e gli si chiede di riprodurlo, allora se un paziente ha una lesione destra e quindi si basa sul suo emisfero sinistro, tipicamente riproduce i piccoli dettagli interni ma non il disegno complessivo, non la forma esterna, mentre se ha una lesione opposta, cioè l'emisfero sinistro, e basa il suo compito su quello destro, disegna il profilo esterno, quindi globale, e si perde i dettagli interni. Non si riesce a scrivere tutto questo in un haiku. No, l'haiku deve essere cervellologi, certo. Ti dai un piccolo stimolino, noi chiudiamo rapidamente con un esercizio di respirazione che ci suggerisce di rilassamento, che ci aiuta. Adesso abbiamo parlato di libri, ci siamo emozionati con i profumi, abbiamo provato a scrivere gli haiku, ci siamo emozionati per Shell, che fa sempre una bella emozione, sarà perché è immortale. E adesso noi facciamo in chiusura questo breve esercizio di rilassamento insieme ad Alberto Chiara, che è proprio un esperto di pratiche meditative, autore del mistero rivelato dei riti tibetani, che sarà poi oggi anche al salone. Sì, lo presenteremo, Alberto, quest'oggi alle 18.30. Sì. Andiamo all'esercizio perché abbiamo un minuto e ci chiudono, ma poi voi potete rimanere. Allora, rilassamento significa rallentare l'attività della nostra mente. Rilassando il corpo le nostre emozioni cambiano, perché la mente produce anche emozioni. Insegnare al corpo a rilassarsi vuol dire toglierci di dosso dal corpo il sentire prodotto dalla mente, poter percepire quel sentire della vita che è all'esterno di noi. E quindi facciamo un profondo respiro. Voi intanto fatelo da casa e vi saluto domani. Grazie. Sì, facciamolo. Portiamo la nostra attenzione sulla nostra testa, sentiamo quello che sentiamo e la lasciamo dolcemente appoggiare. Lasciamo appoggiare il nostro collo, portiamo l'attenzione sulle spalle e sulle braccia e le lasciamo appoggiare quello che riescono in questo momento. Sentiamo tutto il tronco del nostro corpo, lo lasciamo appoggiare e giù fino alle gambe. Tutto questo con un dolce respiro d'accompagnamento. Più lo facciamo spesso nella nostra giornata, più impariamo a toglierci di dosso quel sentire che è prodotto dalla mente, che è un sentire artificioso. Grazie. E che è il sentire di malessere. Essere e benessere.